Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di una bici elettrica di nuova concezione. Tecnicamente si definisce come una macchina sincrona a magneti permanenti per azionare una bici senza catena. Perché non è facile definirla? Ve lo spieghiamo subito con l'aiuto di Enzo Chiricozzi, professore emerito dell'Università dell'Aquila, esperto di macchine elettriche, nonché presidente della giuria del Coiltech Energy Efficiency Award. Buonasera Chiricozzi. Buonasera. Allora, Chiricozzi, il Coiltech Energy Efficiency Award è un premio che viene conferito ai giovani ingegneri che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica nell'industria elettrica. E il primo premio è andato pari merito a due invenzioni: un motore elettrico a superconduttori, diciamo così per semplificare, che è stato progettato dall'ingegner Giuseppe Messina dell'Enea, e poi è andato al signor Stephen Braune per l'invenzione di questa bicicletta molto particolare. Allora, Chiricozzi, le chiedo di spiegarci che cosa ha di speciale questo veicolo. Sì, dunque, questo veicolo sostanzialmente, come lei ha detto, è una bicicletta senza catena, sostituita ovviamente da un azionamento che sostanzialmente vede impegnati un generatore che viene attivato con la pedalata, un generatore elettrico che è una macchina sincrona a magneti permanenti. Sì. Un motore che è anch'esso una macchina sincrona a magneti permanenti e un accumulatore o batteria a ioni di litio. Quindi c'è un generatore che si trova dove normalmente c'è la corona, quella grande, si incrociano i pedali. Il generatore costituisce l'asse di rotazione mosso dai pedali, mentre il motore costituisce l'asse di rotazione della ruota posteriore, credo, no? Esattamente, okay. Il motore è posizionato sulla ruota posteriore che fa, appunto, che sviluppa la coppia motrice. E non c'è una catena, quindi non c'è una trasmissione meccanica, è tutto elettrico. Esattamente, non c'è una trasmissione meccanica, cioè questa bicicletta non è una bicicletta elettrica con pedalata assistita, diciamo così. Ecco, diciamo, assomiglia a quelli che nel mondo automobilistico vengono chiamati EREV, cioè dei veicoli elettrici a range esteso. In pratica sono dei veicoli che hanno una trazione completamente elettrica, ma poi a bordo si producono energia con un motore a combustione. In questo caso, al posto del motore a combustione, abbiamo due gambe, le gambe di quello che pedala, no? Esattamente. Ecco, però qualche bicicletta elettrica senza catena si era già vista. Qui c'è un elemento in più che la differenzia dal punto di vista delle modalità di controllare, di utilizzare questo mezzo. Esattamente, il controllo elettronico consente due modalità di funzionamento, come bicicletta normale, e quindi il rapporto sostanzialmente il cambio, se vogliamo così denominarlo, pensando alla bicicletta convenzionale 1-1. Quindi tanta energia io ci metto con le gambe, tanta energia sprigiona la mia ruota di trazione. La ruota motrice, esattamente. Esatto. Oppure con una pedalata che sostanzialmente mette in atto un cambio elettronico che può arrivare fino da 3-1. Quindi due parti di energia ce le mette la batteria e una parte ce la metto io con le mie gambe. Per esempio questo per fare una salita, no? Una salita, esattamente. E naturalmente c'è il meccanismo di ricarica, che è importante, è questo che fa la differenza nelle biciclette elettriche, no? Il meccanismo di recupero, ovviamente, sia in discesa che in frenata, che consente appunto di portare energia all'accumulatore, quindi di ricaricare l'accumulatore. Ecco, perché se non si sfruttasse questa roba ci si porterebbe solo in giro del gran peso, insomma. Sì, ma poi l'autonomia sarebbe molto più limitata. Quanto pesa, per curiosità? Il peso complessivo della bicicletta sono 28 kg. Ah beh, insomma, pesa abbastanza, ecco. Però perché? Perché si differenzia dalle altre, basta pensare che il motore elettrico sviluppa una coppia di 90 newton per metro. Che è tanto? Sì, perché le altre, se arrivano a 30, è già molto. Ah, d'accordo. Quindi questo va anche come un motorino, volendo, no? In un certo punto. Potrebbe... Sì, perché c'è una potenza nominale di 250 watt, però può essere, ecco, questo è un altro vantaggio, sovraccaricato, ovviamente, non per molto tempo, e può arrivare fino a 1100 watt. Ah, quindi quella proprio di uno scooter. Ecco, che autonomia ha con questa modalità praticamente da scooter? Fino a 60 km. Cioè senza mai mettere i piedi sui pedali fa 60 km? Beh no, diciamo l'autonomia con eventuale recupero... È una stima di quello che si riesce a fare, insomma, con una carica... Esattamente. Si può caricare anche dall'esterno? Si può caricare anche dall'esterno, sì. Grazie professor Chiricozzi. Arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.